Sono condizioni normali, nel senso che sono questo tipo di trattamento lo decide l'autorità penitenziaria ungherese e ci sono vari gradi, diciamo, di pericolosità dei detenuti. Tra gli imputati, Ilaria Salis è ritenuta di media pericolosità, quindi ha avuto diritto a un leggero allentamento delle manette durante l'udienza, mentre il suo coimputato tedesco, che era ritenuto di, invece di alta pericolosità, è rimasto incarcerato tutto il tempo stretto con questi agenti delle forze speciali ungheresi, con tuta mimetica, passamontagna, giubbotto antiproiettile, pistola, una cosa quasi scenografica se non fosse profondamente inquietante, perché noi in Italia con le condizioni carcerarie e tutto quello che ne consegue non abbiamo buona fama, ne parliamo spesso e insomma siamo inquietati, però ecco, probabilmente qui a Budapest è stato fatto un passo in più in quel senso. Chiaramente le immagini di Ilaria Salis che entra in aula, i catene con tanto di guinzaglio legato alla vita sono immagini molto forti e che dovrebbero portare, ecco, le nostre autorità politiche a fare qualcosa, a intervenire. L'Ungheria è in Europa e insomma ovviamente non è solo la questione delle condizioni in cui è stata portata Ilaria in aula, anche le condizioni di detenzione, abbiamo raccontato anche nei mesi scorsi, sono altrettanto disumane e degradanti. L'Europa non dice nulla? Ma no, per ora non sta dicendo nulla, anzi in realtà negli ultimi giorni qualcosina si è mosso. Il commissario europeo alla giustizia ha detto che favorirà i rapporti diplomatici tra Italia e Ungheria, il nostro vice premier Tajani, anche ministro degli esteri, insomma pezzo anche importante del Partito Popolare Europeo, pur senza prendere alcun impegno preciso, si è espresso in maniera fortemente critica dicendo che l'Ungheria in questo modo viola una serie di normative e di convenzioni europee sul trattamento dei detenuti, sui diritti umani, sul rispetto dello Stato di diritto. Quindi il clamore mediatico che hanno avuto queste foto, che hanno avuto queste immagini, che sta avendo la vicenda di Ilaria Salis, potrebbe portare a qualche intervento un po' più deciso nei confronti sia di Ilaria Salis e anche della situazione in generale. Non basta la presa di distanze dall'Ungheria, servirebbe qualcosa di un po' più forte, qualcosa di un po' più deciso. Stamattina la Farnesina ha convocato l'ambasciatore ungherese a Roma, tra le sue rimostranze, ecco, un primo passo diplomatico più forte degli altri, diciamo. Primo passo che però arriva a quasi un anno dall'inizio della detenzione di Ilaria, quindi il governo italiano si sta muovendo un po' tardi. Padre lo dice da settimane, no? Questa storia è cominciata proprio con, diciamo, la dialogo di opinione pubblica è cominciata con il padre che si lamentava del silenzio del governo. Lentamente qualcosa si è mosso, il che testimonia un po' la forza dell'opinione pubblica. Questo è un concetto, diciamo, di carattere generale, cioè non è vero che non serve protestare, perché qualcosa alla fine si ottiene, ecco, il vecchio motto che la lotta paga, ed è vero. E poi sì, comunque lo straordinario ritardo italiano nell'occuparsi di questa vicenda è palese, è lampante. La premier Giorgia Meloni ancora non è intervenuta, non è detto che non lo faccia, con l'onda appunto delle dichiarazioni di Tajani e tanti ormai che chiedono un suo intervento, una sua parola. Veniamo alla situazione processuale. Ieri un coimputato di Ilaria si è dichiarato colpevole, è stato condannato a 3 anni. Ad Ilaria sono stati negati i domiciliari. Tu che sei stato in aula, che sensazione hai avuto? Perché appunto sempre l'avvocato che hai intervistato diceva che alcuni video utilizzati come prova in realtà potrebbero scagionare Ilaria. Lui sostiene che mostrando questi video verrebbero meno appunto alcuni punti dell'accusa e si proverebbe l'innocenza di Ilaria, l'estraneità di Ilaria ai fatti che le vengono contestati, che sono appunto queste aggressioni. Sono 3 neonazisti aggrediti in 2 circostanze diverse e l'appartenenza a questa associazione internazionale che i giornali tedeschi chiamano Hammerbande, banda del martello, è un nome puramente giornalista, comunque sono gli antifascisti tedeschi. Il ragazzo che si è dichiarato colpevole dell'accusa di appartenere a questo gruppo, quindi a questi antifascisti tedeschi, non aveva reati specifici a suo carico, quindi si è riconosciuto colpevole solo di quello, contestando comunque l'entità della pena. La procura aveva chiesto 3 anni e 6 mesi, il giudice l'ha condannato a 3 anni. Comunque si tratta di una persona che ha dei precedenti specifici in Germania, quindi era una posizione sicuramente più delicata di quella di Ilaria Salis, che invece nega non solo i fatti che le vengono attribuiti, ma anche l'affiliazione a questa organizzazione tedesca. Del resto lei è di Milano.